25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, adesso comincia a rallentare, 7, ma cosa fa? Parla, poi ci dice che è finito. No, dovrebbe essere un segnale a questo. Hai visto? Oh, guarda che io c'ho l'orologio dentro. Uè, qui siamo fra musicisti, mica siamo mica cazzi. Questo è il garage che sta fuori. Ah sì, è vero, è vero. Il garage. Quello rosso, no, che fa... Imposta 5 minuti sul timer. Che è il forno a microonde? Ora è il momento del timer, deve andare per 5 minuti, poi noi potremo parlare. Secondo me la modalità ludica, no? di gioco è libera da tante cose, tante pippe, tante paure inutili, tanto... No, forse è questo che mi aggiunge qualcosa, ok? Essere ludici, ma a volte si può anche un po' discutere sui tipi di giochi che si fa, non accettarli a scatola chiusa, forse. A me personalmente, se mi dicono, dai, poi suona, però suona solo note lunghe, per me questo qua non è un limite, no, cioè, certo, a me non me ne importa niente. Ma certo. Cioè, se questo è il gioco che mi si propone e io ci sto, io posso suonare benissimo lo stesso, cioè non è che... Minuti sono miei, tutti miei. Adesso faccio un tondo qua intorno, nessuno ci può entrare perché questi 5 minuti sono miei. A proposito, quanto suona il corpo? Le trombe di Eustachio, le tube di Falloppio, gli organi vari. E poi c'è anche qualche altra cosa, la flauto lenza. Poi c'è ancora qualche altra cosa. La tibia era una tromba, no? Una volta. È vero, la tibia, è vero. La tibia era una tromba. Romana. C'è anche la radio. La radio. Il radio. Basta. Ti senti meglio adesso? Sì. Madonna, la radio, è bellissima. Non è corretto che tu faccia un'azione così semplice da parte tua, insomma. Nel senso? Nel senso che non puoi dire a una persona: lasciati andare, ti do 5 minuti. Ti do 5 minuti. Lasciati andare, cosa vuol dire? Lasciati andare dove? Perché, insomma? Per quale motivo? Perché dovrei lasciarmi andare? Beh. Se invece tu all'inizio, oggi, invece che portare questa cosa, ecco, avete 5 minuti per no, sperimentare su quello, se avessi già sperimentato te e visto che succede qualcosa di interessante, se succede qualcosa di interessante, allora non è che dici ti metto 5 minuti, ma parli di una cosa, come hai fatto per esempio nelle altre puntate. Ma scusa, ma veramente stavano dicendo proprio questa cosa del... che a Bari è assurdo lavorare sui 15 minuti, insomma. Com'era il discorso? Cioè che a Bari volevano, vogliono fare che non che suoniamo in gruppetti, per esempio sparsi per il... Leggere attentamente il libretto d'uso della posologia per la caserma, l'ex caserma. Del libretto informativo. Ma che c'era un palco in cui suonano dei gruppetti, ognuno 15 minuti. Ci avviciniamo ai 5 minuti. Sì, sì, non è un problema. Immagino che ti sei. Ah, ho capito. Ovviamente andremo lì e distruggeremo tutto e tutto. Esatto. Qualsiasi cosa tu avessi. Avanti. Vedi, è molesto, perché mi devo fermare a parlare? Ma vaffanculo. Tre minuti e mezzo. Dura tanto 5 minuti. Dura tanto 5 minuti, ragazzi. È il mio momento di libertà, lasciatemelo godere. Ancora un po'. Oh, finché c'è. Sennò poi. Comunque c'erano esercizi che si facevano, io ne ho fatti tanti e per questo lo so. C'erano esercizi che si facevano suonando. Suonando e contemporaneamente avendo la percezione del tempo che passa, del tempo reale che passa, perché suonando tu dilati il tempo, lo accorci, fai quello che ti pare. L'unica cosa bella della musica te la togli così. Ma cosa vuol dire fare la replica di una cosa improvvisata? Ma cosa stai dicendo? Sì. Ma come fai a fare la replica di una cosa improvvisata? Allora non è più improvvisata. E dobbiamo imparare sempre più a stare nei nostri pensieri, ad assumerci la responsabilità dei nostri pensieri. Cioè, il nostro pensiero è di giocare, giochiamo, punto. Ma non che tutti quanti dobbiamo avere il pensiero di giocare, ecco. Eugene, quando diceva nella mia nazione i bambini adesso si comincia a far fare esercizi di improvvisazione. Ecco, secondo me questo tipo di esercizi che negli anni 60 si cominciavano a fare, poi sono morti lì, nella maggior parte perché qui non stiamo stiamo parlando solo di musica improvvisata, anche di musica sperimentale, perché sennò diventa riduttivo. Cioè, io ci vorrei infilare anche la musica sperimentale all'interno dell'impromptu, capisci? L'impromptu musica... sarebbe dell'improvvisazione, improvvisato, sì. Really improvvisato. E cioè? Della sperimentazione. E la sperimentazione c'ha tutto un impianto filosofico ben preciso. Ce ne diciamo anche di peggio. Capito? Non è che dici io sai fuori. Sperimento. A cazzo. Capito? C'è un impianto. E quindi se io improvviso con altri, non me ne frega niente, sto improvvisando. Cioè, diciamo chiunque, però diciamo che io in testa ho sempre il mio sistema filosofico di sperimentazione, altrimenti mi perdo, non riesco più a esprimermi, no? Questo è quello che volevo. Ma cosa intendi tu quando se ci volessi spiegare a noi cos'è la sperimentazione? Cioè, il tentativo di scrivere il manifesto è fallito. Però io ci ho provato a scrivere un altro manifesto dopo quello di Paolo, perché quello di Paolo non mi piace. È riduttivo, perché quello di Paolo non c'ha un impianto, capito, sperimentale. Ho provato a scrivere una sorta di manifesto, ma poi se ne stavo parlando con Luca Miti, ma alla fine poi è andato un po'. Cioè, ho scritto soltanto il primo articolo, non aveva senso. Non me ne frega un tubo, però comunque c'è dell'altro, no? Diciamo, non è che improvvisare significa soltanto suonare a cazzo, capito che ti voglio dire? Io posso sì dire alcune cose. Perché sennò sarebbe la fine. Cioè? Cioè che per esempio quando sono andata in Grecia a fare questa conta di improvisation, dove è improvvisazione, però uno dei ballerini più bravi diceva: io metto dei vincoli alla mia improvvisazione per cercare, cioè dico ora faccio 5 minuti solo toccando con la spalla il mio compagno. C'era una barzelletta che faceva così, diceva dei quindi, tutti ridevano, no? Dice come potremmo vivere senza i nostri 5 minuti di libertà, che è un metodo di improvvisazione. Ma non era così, aspetta, era horror. Tutti hanno diritto ad avere un minuto di notorietà, un quarto d'ora, è una delle frasi più famose di Warhol. Pensa a te, una domanda quando ho proposto sta cosa. E perché abbiamo sempre discusso tanto della differenza dei grandi ensemble e dei piccoli dell'improvvisazione. Certo. E quando uno improvvisa da solo? Oh, bellissimo! Quello. A seconda dei casi, quello è sempre improvvisazione. Cioè, ma tu come la vedi? È scrittura. Ma cambia, cambia qualcosa o questo senso di vuoto? Cosmico. Per me non cambia nulla, io è come se suonassi sempre da solo. Mm-hmm. Ho dei trucchi per cui mi estraneo al fine di tirar fuori, capito? Alle volte mentre suono io mi estraneo, non sento più niente, capito? Non sento più niente e lascio al mio orecchio inconscio ascoltare quello che c'è in giro, non lo ascolto razionalmente. Sì. Capito qual è il trucco? In fondo, sì, sì, quindi ecco che ci chiamano su Skype, raga. Perché è importante, tra l'altro, proporre un gioco del genere? Per il motivo che ho detto prima, secondo cui ci sono diverse visioni dell'improvvisazione e invadere un palco è lecito quanto illecito, nella stessa uguale misura, per il principio secondo cui devi rispettare le persone che stanno suonando. Ci sono persone che per rispetto, e hanno ragione tanto quanto ne hai tu, intendono che quando stanno suonando non vogliono essere invasi. E ci sono persone che per rispetto, ed hanno ragione esattamente quanto ha ragione quello lì, vogliono essere invasi, vogliono che il palco sia invaso, che è quello che dici te. Quindi ragione non ce l'ha nessuno, e ragione ce l'hanno tutti e due. Quindi le decisioni, come avviene ogni volta che saliamo a Roma, e io sono un membro alla pari del vostro collettivo, anche se abito a Bari, vanno prese assolutamente tutti quanti insieme. Perché se noi decidiamo, no, che dobbiamo fare dei set da un quarto d'ora, anzi, se alcuni decidono che nei loro set non vogliono intrusioni e tu sali sul palco, io ti butto giù. E la radio oggi che cosa avete fatto? Oggi questo. No, oggi praticamente gli ho detto a questi che avevano 5 minuti per dire quello che volevano. E si sono incazzati. Hanno un po' recalcitrato, ma alla fine gli dai la libertà. Hanno fatto e soprattutto è stato interessante perché sta suonando il pianoforte con l'archetto. Avviciniamo? Aspetta. Lo so, abbiamo sperimentato da poco. E certo. Sì. Che figo questo suono. Fagli il pezzo forte. Sapete un video? Ci pensa. Sapete un video? Ci siamo una che la biblioteca. Sì, era di Ti piace? Bello sono. Ho fatto una registrazione. Una mattina mi sono svegliato. Ho detto, ma cazzo, ho aperto il pianoforte. Ma cazzo, io devo suonare con l'archetto sta roba. Mi sono messo lì e ho detto, ma come fai a prenderle che sono dritte? È perché tipo inclini, cioè tu sei dritto così, lo inclini per così. Ah, quindi lo prendi di diagonale. Esatto, per quelle più basse o quelle più alte o quelle a metà dove ci sono gli spazi. Mentre per le altre lo suoni proprio così. Poi bene, lo sto suonando bene. Attenti, chissà il coda che se le avessi. Magari ci sei il coda di... Penso di sì, anche perché mi sa che ha più spazio, perché lì c'è poco spazio per le camere.